Ja, dus nu gaat Carto Pesto spelen. Oh jee. Moet men nu een weg banen door allemaal mensenmassa's. Het is best wel druk. Het is ook heerlijk weer natuurlijk. En molto intelligente, droghe, mani, fuochi, fate mai, non la scalfisce niente. Plinio, eroe di natura, mamma vieni che sto molto male, ogni donna è una congiura. Col cappello degli altri. Bravi tutti, tutti, tutti, bravi, gente competente. Morti, senza saper notare. Bevi, muori, canta, scopa, bevi, per farti sotterrare. Every time I see you, ceilings might collapse. Color bones are getting thinner. Tenderness is dead. Sun's behind your curtains, yet your sky stays blue. Pain remains the last solution. All the rest is smoke. Touch on finger is getting higher. Might regrow. To dance, to move, to express, just go through it. faceva, se faceva con quel no, no, no, no, no, no, no. Si mi pizzi sull'icche, si sfasciava sull'occhè, ma se sul canto sol per te. E la morte mi diceva che fa ha, no. Thank you so much, Circus Band, for having us. We have Sara Guidolin here, Marco Lupaia, and I'm Beatrice Sbene, and we are going to leave you with the last tune. Scra! Scra! Se vuoi fare una pasta al pesto fatta bene, hai bisogno degli ingredienti buoni fondamentalmente, che in Olanda sono veramente molto difficili da ottenere, perché tu ti ritrovi sempre a prendere sto cazzo di pesto Barilla comprato e poi ti ritrovi a casa immenata perché non c'hai gli ingredienti buoni, e quindi di conseguenza devi andare a prenderti una bella piantina di basilico ligure, che sicuramente ti morirà sul balcone. Vabbè, comunque tu prendi le foglie, le metti tutte in fila una dopo l'altra, ti prendi proprio quelle più belle, le prendi, le metti lì bene, le lavi così sono belle pulite. A parte metti dell'aglio, comunque lo tagli e metti intanto queste cose nel pestaio. Devi avere dell'olio d'oliva, ma dell'olio d'oliva buono, possibilmente del Molise, in un paese che si chiama Larino, in provincia di Campobasso. Te lo fai mandare direttamente dal Molise dal tuo amico Andrea, lo metti in mezzo a tutto, vai, Nord Italia è un ottimo negozio ad Amsterdam per comprare prodotti italiani. Allora tu metti il pecorino comprato da Nord Italia e il parmigiano all'interno del pestello, inizia a pestare tutto, però devi metterlo all'interno del mortaio, perché se praticamente tu usi il frullatore, poi si annerisce, perché le foglie di basilico si anneriscono, e di conseguenza tu schiacci tutto, nel frattempo per fare l'etrofia le metti all'interno di acqua lasciata bollire, lasciata bollore, lasciata bollita, però metti del sale, grosso, e poi il sale grosso lo metti anche nel pestello, perché così restano un pochino le cosine di sale. Quindi tu inizi, continui a pestare tutto, e nel frattempo la tua pasta si sarà cotta. Non lasciarla più di 8 minuti, perché poi ti diventa una pappetta e veramente non conviene. Tu l'assaggi, mischi il tutto il tuo pesto sarà pronto per essere servito. Hurry up. Dit was, wat was het, een Magna Pesto of zo. Geweldig, maffe, rare shit.